Capitolo 3. Veniamo così a un altro capitolo della vicenda. In effetti, il modo in cui il governo provvisorio di Milano, d'intesa con l'esercito piemontese, accolse le richieste dei volontari lombardi, rientrava in un atteggiamento più generale. Non ai soli militari lombardi si fece subire quell'ingiustificabile trattamento, bensì pure ai volontari e ai rinforzi regolari accorsi da ogni parte d'Italia. Era assurdo sperare che un granduca di Toscana, principe di casa d'Austria, un pontefice romano o un borbone di Napoli intervenissero apertamente in aiuto di casa Savoia e della popolazione milanese in rivolta per cacciare gli austriaci dall'Italia settentrionale. L'invito che il governo provvisorio di Milano, appena costituito, rivolse agli altri stati italiani perché si assumessero la loro parte di oneri e di rischi nella guerra era un semplice atto formale e non aveva senso nella misura in cui si rivolgeva ai popoli stessi. I popoli, infatti, ascoltarono quell'appello e il contingente che fu formato negli stati romani mostra quello che ci si poteva attendere dal generoso slancio degli italiani. La storia di quel contingente posto agli ordini del generale Durando è un episodio troppo significativo della guerra d'indipendenza italiana per non rammentarlo qui come prova indispensabile a sostegno delle mie affermazioni. La prima armata che si formò nell'Italia centro-meridionale per marciare in soccorso dell'Italia del Nord fu l'armata romana. Il popolo romano pretese la formazione immediata di un corpo di truppe che il generale Durando avrebbe avuto l'incarico di condurre nel Veneto. Parecchie legioni di guardie nazionali, un consistente numero di volontari, truppe regolari e circa 7.000 svizzeri formavano un'armata di 14.000 uomini, che rappresentava il contingente romano del grande esercito italiano. L'Italia provò un sentimento di profonda sicurezza quando apprese la notizia della nomina del generale Durando al rango di comandante delle forze attive della Santa Sede. Il generale Durando aveva lasciato da molti anni il Piemonte. In un'epoca in cui sarebbe stato troppo difficile per un italiano di parte liberale dimorarvi senza compromettere il proprio onore. Nella guerra di Spagna aveva combattuto dalla parte del diritto e si era acquistato fama di ufficiale ardimentoso. Rientrato in Italia, quando le idee liberali avevano cessato di esserne proscritte, il generale aveva rifiutato ogni incarico che potesse apparire ambiguo e viveva a Roma, modestamente, povero e senza riconoscimenti ufficiali, ma onorato da tutti e circondato dalla considerazione che si lega a una vita senza macchia e a doti ben conosciute. Quando in Lombardia si apprese che egli aveva accettato il comando dell'armata romana, si credette di poter fare conto sulla cooperazione attiva di un amico fedele. Il Veneto, che fino a quel momento non aveva ricevuto soccorso da nessuno, volse gli sguardi verso la Romagna e si credette salvo. Durando era a Ferrara, e le sue truppe, scaglionate dalla città fino al Po, facevano pressione su di lui perché lo varcasse. Durando continuava a dire di no con pretesti diversi. Oggi doveva attendere rinforzi, l'indomani a non arrivare erano certi ordini, eppure agli inizi egli aveva rivolto alle truppe un proclama in cui si diceva mandato da Pio IX per assumere il loro comando e farle marciare contro gli austriaci. Tutta la Lombardia e tutto il Veneto avevano gli occhi puntati su di lui e non sapevano che cosa pensare di questa strana inazione. Dei temporeggiamenti di Durando, Carlo Alberto si serviva per giustificare la lentezza con cui anche lui conduceva le operazioni. L'aiutante di campo del generale, il marchese Rosales, arrivò a Milano in quel periodo e parve fornire al governo provvisorio la chiave dell'enigma. Il generale Durando non aveva il denaro necessario per completare l'equipaggiamento delle sue truppe e faceva chiedere al governo provvisorio una somma abbastanza elevata. Gli fu accordata quasi senza discussione. Il marchese Rosales partì da Milano con la speranza di tornare di lì a poco al seguito del suo generale vittorioso, nonostante l'aiuto finanziario e le istanze fervide ripetute che il marchese Rosales trasmise al generale Durando. Questi lasciò trascorrere ancora molti giorni senza muoversi, non giustificando in nessun modo il rifiuto di venire avanti e mostrando chiaramente di non avere altro scopo che quello di temporeggiare. Come sempre e dappertutto, anche durante i 4 mesi della guerra furono le masse a trascinare i capi. L'armata romana costrinse il generale a passare il Po e a marciare contro il nemico. Le truppe avevano appena varcato il fiume quando una locuzione di Pio IX annunciò ai popoli che la missione della sua armata si limitava alla difesa dell'integrità del territorio romano e ingiunse al generale di non prendere l'offensiva contro gli austriaci. Questa allocuzione, che era seguita, si dice, da un ordine segreto con la raccomandazione al generale Durando di retrocedere sino a Ferrara, suscitò in Roma e nelle province una minacciosa irritazione. Da una parte la rivolta sembrava imminente, dall'altra Carlo Alberto mandava a dire a Durando, ormai entrato sul teatro di guerra, che lì capo supremo era lui e per conseguenza ogni generale gli era subordinato e non poteva più accettare ordini da altri. Durando doveva dunque marciare senza curarsi di ingiunzioni che gli venissero da altra fonte. L'armata romana appoggiò la dichiarazione di Carlo Alberto. La popolazione di Roma pretese che il Papa ritrattasse. Durando si risolse ad andare avanti e qualche giorno dopo ne ebbe autorizzazione dallo stesso Pio IX. La situazione delle province venete era diventata estremamente critica perché il generale Nugent scendeva dalla parte di Treviso, Udine e Belluno alla testa di un'armata austriaca di 12 o forse 15.000 uomini per congiungersi a Radeschi, sempre chiuso in Verona. Nugent devastava tutto lungo il suo cammino e faceva cadere ogni posizione che non fosse abbastanza forte da opporgli una lunga resistenza. Se si pensa che il Veneto non disponeva a quell'epoca di un solo reggimento di soldati regolari, si comprenderà come l'armata del generale Nugent potesse seminarvi il terrore e compiervi orribili devastazioni. Dopo aver attraversato il Po, Durando marciò lentamente verso Treviso, che era attaccata dalle truppe di Nugent. Dico che marciò lentamente, e in effetti la sua lentezza fu tale che quando giunse tutto era già stato risolto, e per la fermezza e il valore dei cittadini risolto questa volta a vantaggio degli italiani. I soldati di Nugent, forse nel timore di dover perdere troppo tempo sotto le mura di Treviso, rinunciarono a impadronirsi della città e si diressero su Belluno, Udine e Vicenza. Avevano appena lasciato le mura di Treviso e preso la direzione di Udine quando Durando inverte la marcia e, rassegnandosi alla perdita di tutta una provincia, corre a piazzarsi nel punto in cui la strada di Vienna sbocca nella grande strada tra Milano e Venezia, a poca distanza da Vicenza. Mantiene questa posizione mentre Nugent si impadronisce di Belluno, di Udine e di Bassano. Ma quando, non avendo più città da conquistare, Nugent cala in linea retta su Vicenza, Durando si ritira a Mestre. Nugent giunge indisturbato di fronte a Vicenza, attacca la città e per parecchie ore la bombarda. Sono gli abitanti, con diversi corpi di volontari comandati dal generale Antonini, a respingere Nugent e a costringerlo a togliere l'assedio. Nugent riprende la via di Verona, dove entra senza aver trovato ostacoli, portando al maresciallo Radeschi un rinforzo notevole. Che fa intanto il generale Durando? Segue pian piano e a piccole tappe le truppe di Nugent, in modo da tenersi sempre a una certa distanza dal generale austriaco. Poi, quando lo ha visto fare la sua entrata in Verona, compie un dietrofront e ritorna a Vicenza per porvi il suo quartier generale. Di lì a poco, però, l'esercito austriaco quasi al completo esce da Verona e si porta su Vicenza. Carlo Alberto, che proprio allora, dopo uno scontro sanguinoso, aveva preso Rivoli, invia un corriere a Durando per domandargli quanti giorni potrà resistere a Vicenza. 6 o 7 almeno è la risposta, in base alla quale Carlo Alberto prende provvedimenti per fargli avere soccorsi. La fiducia che gli abitanti di Vicenza riposero nell'aiuto dell'armata romana ebbe l'effetto di sminuire il loro impegno? Pensarono che la salvezza della città non dipendesse più unicamente dal loro coraggio? Vien fatto di crederlo se si considera la rapidità con cui gli austriaci si impadronirono delle alture che dominano la città. Era un male, ma un male riparabile. Il generale Durando sembrò pensarla diversamente perché appena i cannoni nemici cominciarono a scagliare bombe sulla città, egli fece spiegare al vento la bandiera bianca, muto segno di resa. Appena i cittadini se ne accorsero, il generale fu costretto a ritirarla e a continuare il combattimento, ma mentre ferveva la battaglia, la malaugurata bandiera bianca spuntò da un'altra parte della città. Avvertiti per la seconda volta che la capitolazione stava per essere conclusa, gli abitanti furibondi spararono contro la bandiera finché la fecero cadere. Soltanto il segnale, tuttavia, scompariva, il fatto rimaneva. L'atto vergognoso era stato consumato e la città si arrendeva dopo un combattimento di poche ore con un'armata dentro le mura per difenderla e un'altra armata distante poche ore di marcia per soccorrerla. I termini della capitolazione sono noti. Il generale si riservava il diritto di lasciare la città, accompagnato dai suoi soldati e dai cittadini che avessero voluto seguirlo con armi e bagagli. Egli si impegnava e prendeva tale impegno anche per le sue truppe a non rivolgere le armi contro l'Austria per un periodo di 3 mesi. Si era allora agli inizi di giugno e i 3 mesi sono ora passati. Il generale Durando aveva lasciato Vicenza, seguito da una parte della popolazione, e gli austriaci non si fecero scrupolo di insultare e maltrattare, a dispetto della convenzione, i cittadini usciti per ultimi dalla città. L'armata romana aveva ripreso la strada di Ferrara e tutto era compiuto quando le truppe piemontesi giunsero davanti a Verona. La bandiera gialla e nera campeggiava sulle mura. Gli uomini mandati in avanscoperta riportarono la triste notizia che a Vicenza tutto era finito e che gli austriaci, vittoriosi, erano già rientrati in Verona. Perché tanta lentezza nella marcia delle truppe piemontesi? I loro capi risposero che gli uomini erano stanchi e che del resto si era fatto conto su 6 o 8 giorni di tempo di cui aveva parlato il generale Durando. Riferisco esattamente i fatti. Non do spiegazioni. Mi si permetta peraltro di aggiungere che il mio personale parere è sempre stato favorevole al generale Durando. Non saprei però dire quale possa essere la sua giustificazione. Mi sembra infatti che in simili casi anche ordini segreti da qualsiasi parte possano essere venuti non siano da considerare giustificazione sufficiente. Per quanto le apparenze siano poco favorevoli al capo dell'armata romana, quali che siano state le tristi conseguenze del suo comportamento, mi sento in obbligo di dichiarare che ho conosciuto personalmente il generale Durando e ho sempre creduto di vedere in lui un uomo d'onore e di senno, amico sincero del suo paese, incapace di bassezze e di viltà. Uno di quegli uomini, in definitiva, sui quali nei momenti difficili si farebbe pieno affidamento. Ho voluto fare questa dichiarazione per sentirmi sollevata da un peso e per convincere il generale, come tutti quelli di cui mi capiterà di parlare, con una certa severità, che non è la collera per la disfatta a dettare le mie parole, che non sono prevenzioni sfavorevoli a indurmi a far pesare su di loro la responsabilità di tutte le nostre sventure. Il solo sentimento cui obbedisco è il desiderio di giustificare il mio paese, facendo ricadere sui veri colpevoli i torti che gli vengono attribuiti. Le popolazioni italiane, i lombardi e i veneti in particolare, sono state ammirevoli in quei 4 mesi. I capi hanno commesso errori enormi per i quali è la nazione a scontare ora la pena. Per errori altrui l'Italia è lesa nei suoi interessi, nella sua indipendenza, nella sua libertà, nella sua esistenza. Vorrei almeno tutelarne l'onore. Dalla campagna del generale Durando si può giudicare in che strano modo siano state dirette le operazioni del contingente romano. Illustrare le vicissitudini degli altri corpi ausiliari equivale a portare ulteriori prove a discolpa della nazione italiana, la quale, sarà possibile convincersene, non si è certo sottratta al carico di pericoli che per tutti la guerra comportava. La Toscana offrì dal primo giorno 5 o 6 mila volontari, una parte dei quali fu impegnata nell'assedio di Mantova. Quegli infelici furono trattati con una negligenza umana tale che esiterei a crederci se non avessi avuto sotto gli occhi la testimonianza scritta del loro comandante. Fu affidato loro il lato delle paludi e furono dimenticati là, in quella posizione mortale, per più di una settimana. Le paludi che bagnano un lato delle mura di Mantova formano un vero lago di acqua stagnante, nella quale un uomo affonda sino a metà del corpo, e là, in piedi in quelle acque, i soldati toscani furono lasciati per 8 giorni, senza che potessero stendere le membra spossate e doloranti per la febbre, e senza che il loro sacrificio fosse di alcuna utilità militare. Il preteso assedio di Mantova, infatti, non era posto che dalla parte del lago, mentre le entrate e l'uscita dalla città erano del tutto libere dagli altri lati. Quanto al valoroso battaglione universitario di Pisa, che portava sul campo di battaglia tutte le speranze di una generazione, nessuno ignora che, incaricato di difendere la posizione di Curtatone, fu abbandonato a se stesso, alle prese per 8 ore con un'intera divisione austriaca e che i soccorsi tardivi mandati da Carlo Alberto trovarono soltanto un cumulo di cadaveri. Napoli si era impegnata a mandare in Lombardia una forte armata e l'entusiasmo della popolazione non permise al governo di mancare alla parola data. Tutti sanno quale orribile catastrofe ripristinò il re nell'esercizio della sua autorità e gli permise di richiamare le truppe. Meno note sono le cause, tanto che in genere se ne incolpa l'insofferenza del Partito Repubblicano, ammesso che questo partito esista davvero. Nel Regno di Napoli resta certa la sua totale estraneità ai disordini che si verificarono nel paese. La Costituzione, concessa dal re, incontrava la disapprovazione generale e da un po' di tempo se ne chiedeva la riforma. L'opinione pubblica si era pronunciata a gran voce per una sola Camera. La disputa cominciò quando i deputati, pronti a riunirsi per la prima seduta del Parlamento, presentarono una petizione in cui era espresso il desiderio che la Costituzione fosse modificata nel senso indicato dal voto unanime del Paese. Il re rispose con irritazione, fece pattugliare la città da soldati e si chiuse in stato di difesa nel suo palazzo. Il popolo gli oppose le sue barricate. Non pensava però, né lo pensavano i soldati, che questi preparativi avrebbero avuto un seguito sanguinoso. Erano appena state siglate le basi di una transazione quando un colpo di fucile, partito non si sa da dove, diede il segnale del combattimento, andando a colpire mortalmente un soldato svizzero. Poi la vendetta reale ebbe il suo corso e le truppe, inviate al nord, furono richiamate a Napoli. Il generale Pepe cercò invano di trattenere la sua armata sul teatro di guerra. A poco i battaglioni lo abbandonarono, restò solo con alcune legioni di volontari. Era ben su questi che occorreva in effetti appoggiarsi. 4 colonne di volontari aveva inviato Napoli, ma presto almeno un terzo di quei giovani se ne tornò a casa. I Lombardi non vogliono saperne di noi perché andiamo a soccorrerli per forza, dicevano a chi si accingeva a partire per la Lombardia come avevano fatto loro. Questo rimprovero era fondato soltanto a metà. A respingere i napoletani non era stata la popolazione milanese. Essa li aveva accolti come fratelli e per loro tutte le case erano aperte, ma il governo provvisorio sembrava essersi assunto il compito di spegnere il loro entusiasmo. Quelli che erano arrivati ammalati e chiedevano qualche giorno di riposo per ristabilirsi erano minacciati delle pene che si infliggono ai renitenti. Quelli che reclamavano il loro soldo erano accusati di indelicatezza. Quelli che esortavano il governo a dar loro ufficiali degni di fiducia ricevevano rimproveri per la loro insubordinazione. Quelli che esprimevano il desiderio di cambiare corpo militare e di arruolarsi nelle truppe regolari erano segnati a dito per la loro incostanza e leggerezza. Era sin troppo chiaro che la presenza dei volontari era considerata un fastidio dai capi dell'esercito e dal governo. Si sarebbe benedetta l'occasione che avesse liberato lo Stato da quegli importuni, tra virgolette. Capitolo 4. Ho esposto fatti che nessuno può seriamente contestare. Se mi si obietterà che le intenzioni dei capi del governo e dell'esercito erano buone e che tutto dipese da un concorso di sfortunate circostanze, ribadirò che non sto discutendo l'innocenza o la colpevolezza di nessuno. Mi limito a raccontare, a raccogliere i miei ricordi. Quello che per me è evidente e resta evidente per ogni mente imparziale è che l'Italia intera si era commossa alla notizia dell'insurrezione lombarda, è che l'Italia intera voleva prendere parte alla guerra contro l'Austria. Furono soltanto pochi uomini a considerare quello slancio con inquietudine e si temevano che il Piemonte sarebbe stato sminuito nel suo prestigio se il resto dell'Italia avesse condiviso il merito del suo intervento. 20 milioni di fratelli chiedevano soltanto di impugnare le armi per la causa della Lombardia. Occorreva invece che questa non dimenticasse di dover aspettare tutto, tutto sperare dal Piemonte e di non poter aspirare a esistere altrimenti che per suo mezzo. Soltanto un simile pensiero, è ben certo, spiega gli strani atteggiamenti sprezzanti, le catastrofi misteriose che hanno così amaramente ripagato lo zelo di volontari napoletani, toscani e lombardi e finito con il paralizzare il generoso impeto dei popoli italiani. Ma le stesse persone, le cui colpevoli manovre avevano condotto a questo risultato, si sono poi effuse in impudenti lamentele per la tiepidezza degli italiani in generale e dei lombardi in particolare. Queste accuse hanno anche passato le Alpi e riecheggiano in Francia, alla luce dei fatti che ho raccontato e di quelli che esporrò. Si potrà valutarne la fondatezza. Una sola scusa poteva accampare il governo provvisorio di Milano per la sua fiacchezza e le sue lungaggini, i pretesi ostacoli frappostigli dai partiti che dividevano l'opinione pubblica. Vediamo se questa scusa è valida. Carlo Alberto, mettendo piede in territorio lombardo, in un solenne proclama aveva dichiarato lontana da sé ogni ambiziosa mira di conquista. E si era compiaciuto di chiamarsi la spada dell'Italia. C'era spirito cavalleresco in quella dichiarazione, ce n'era troppo perché il re del Piemonte potesse rispettarla sino in fondo. I gruppi che componevano il governo provvisorio trovarono nel proclama di Carlo Alberto l'occasione per precisare in modo netto il proprio atteggiamento. Il partito monarchico sembrava considerarlo l'effetto di un'esaltazione generosa e riteneva che i lombardi dovessero opporsi con ogni forza all'esecuzione di una promessa imprudente. Per parte sua, il partito repubblicano magnificava quella generosità, la diceva piena di saggezza e sosteneva che sarebbe stato un insulto sanguinoso per il re supporlo capace di tornare su quella decisione. Quando Mazzini giunse a Milano, verso il 10 aprile, il governo gli fece una festosa accoglienza. Le due tendenze presenti nella compagine al potere avevano uguale interesse a riceverlo bene. I sostenitori del re speravano di guadagnarlo alla causa della monarchia costituzionale. I repubblicani forse si illudevano o di ottenere, grazie alla sua eloquenza, la conversione dei colleghi o di screditarli agli occhi di Carlo Alberto, servendosi dei loro legami con il capo del partito repubblicano. Quell'accoglienza stupì tutti. E subito fece nascere sospetti tra gli uomini del partito costituzionale sugli orientamenti del governo provvisorio e tra i repubblicani sullo stesso Mazzini. Ma tali sospetti erano infondati e la popolazione non tardò a convincersene perché l'accordo tra i rappresentanti delle due opinioni politiche contrarie durò poco. Appena si manifestarono i primi sintomi di raffreddamento, i repubblicani, allora abbastanza numerosi, si raggrupparono attorno a Mazzini e l'accettarono tacitamente per capo. Il partito repubblicano, bisogna riconoscerlo, si comportò peraltro molto più prudentemente di quanto in genere non si affermi. Nel giornale che fece uscire allora sotto il titolo L'Italia del Popolo, Mazzini non si oppose affatto all'unione della Lombardia e del Piemonte, si limitò a chiedere che la promessa fatta dal re fosse mantenuta, che si riconoscesse al popolo lombardo il diritto di non prendere decisioni sulla propria sorte prima della fine della guerra e di riunirsi a indipendenza conquistata per pronunciarsi dopo matura deliberazione circa l'assetto istituzionale più idoneo ad assicurare l'unità e la libertà d'Italia. Non devo trascurare di notare qui che il partito repubblicano si divideva in due campi. Il partito repubblicano unitario, di cui era capo Mazzini, e il partito repubblicano federalista che si radunava attorno a Cattaneo, illustre scrittore e profondo economista milanese. Poiché i loro voti più ardenti avevano per oggetto l'unità della penisola, Mazzini e i suoi non potevano parlare a nome di una sola regione italiana e dovevano di necessità limitarsi a insistere perché si consultassero i vari popoli d'Italia e la forma del futuro governo fosse determinata dalla maggioranza dei suffragi. Tra il Partito Repubblicano Unitario e il Partito dei Monarchici Costituzionali le divergenze di opinione consistevano soprattutto in questo. I costituzionali volevano anzitutto la formazione di uno Stato potente, un Regno d'Italia settentrionale che si tenesse pronto ad approfittare di ogni circostanza favorevole per attrarre a sé gli altri Stati italiani in modo da giungere alla Costituzione di una sola Italia. I Repubblicani Unitari, invece, respingevano questo programma, che giudicavano di lenta e poco sicura attuazione, essendo dubbio che le popolazioni del centro e del mezzogiorno d'Italia si sarebbero battute per un principe di casa Savoia contro i propri sovrani. E si ritenevano che l'Italia non avrebbe potuto rigenerarsi se non con uno slancio unanime degli italiani. Bisognava rompere risolutamente con il passato per cominciare un'esistenza nuova su queste nuove basi. Libertà, indipendenza e unità. la separazione della Sicilia dal Regno di Napoli, l'unione del Regno Lombardo-Veneto al Piemonte, li commuovevano poco e apparivano loro di scarsa importanza. Per loro non si trattava né della riunione né della separazione di qualche regione, occorreva invece un movimento generale di tutti gli italiani contro il sistema degli stati e staterelli distinti, un movimento destinato a formare di colpo una sola Italia. I repubblicani unitari si facevano forti del proclama con cui Carlo Alberto aveva dichiarato di non voler accettare nulla dai Lombardi prima della espulsione totale degli austriaci. Protestavano di non avere altro scopo che quello di mettere il popolo in condizione di pronunciarsi con cognizione di causa. Quando fosse arrivato il momento, si impegnavano poi a rispettare la scelta popolare, quale che fosse, e a servire la monarchia costituzionale se il popolo l'avesse adottata con una scelta libera e ponderata. I costituzionali, si comprende, non trovavano irragionevoli queste idee dei repubblicani unitari. Più difficile per loro era andare d'accordo con i repubblicani federalisti, perché, secondo questi, tutto quello che facevano i lombardi e i piemontesi partiva da un presupposto sbagliato. Si appoggiava poi su dati falsi e aveva per meta una chimera. Questa fazione avrebbe potuto senza dubbio intralciare l'opera di liberazione dell'Italia, tentata unicamente dalle armi piemontesi e lombarde. Ma il capo del partito federalista, Cattaneo, non è né un intrigante né un ambizioso irrequieto. Egli è certo cosciente del proprio valore e aspira a occupare nel suo paese un posto degno delle sue alte capacità, ma la dirittura delle sue intenzioni e una sorta di nonchalance, di pigrizia che gli sono proprie, gli impediscono di cogliere, come molti invece fanno, avidamente senza scrupoli, ogni occasione per farsi avanti. Cattaneo sa mettersi in ombra quando giudica che la sua presenza potrebbe nuocergli o nuocere ad altri. Per tutta la durata della dominazione austriaca si era tenuto in disparte, perché la sua dignità non gli avrebbe permesso di mostrarsi in altro posto che in prima fila tra gli oppositori, ma in questi, nel loro successo, aveva poca fiducia. Dopo il 22 marzo era rimasto qualche giorno a capo del comitato di guerra, ma poi aveva compreso che i suoi colleghi di governo non avrebbero tardato ad attaccarlo e che le sue opinioni potevano, da un momento all'altro, ferire implacabili suscettibilità. Uscì allora dalla vita politica. Giunse anzi a rinunciare a ogni polemica. Dal momento del suo ritiro, cioè dallo scioglimento del comitato di cui era presidente, Cattaneo si impose la norma di non provocare né accettare discussioni politiche mentre durava la guerra. Non un solo giornale poté in effetti vantarsi di contarlo tra i suoi redattori, non un club poté nominarlo tra i suoi soci. Quando si accorse che il governo e la popolazione gli attribuivano lo stesso discorsi e scritti sediziosi, Cattaneo si chiuse in casa e non acconsentì a ricevere più se non un ristrettissimo numero di intimi. In realtà l'opinione dei repubblicani federalisti non fu neppure rappresentata nell'arena delle discussioni politiche in Lombardia. Quello che ho detto dei repubblicani unitari e federalisti è sufficiente a mostrare che il governo provvisorio non aveva nessun appiglio per imputare a intrighi dei partiti la sua difficile situazione. Le cause di quella situazione le ho già messe in chiaro. Bisognava proprio cercarle nel governo stesso. Prima di passare al racconto delle nostre ultime sventure, mi è parso giusto indicarne i responsabili. Se il nemico ci ha sorpreso, con le casse dello Stato vuote, con una popolazione disarmata, con truppe senza disciplina, in un'Italia inattiva e quasi indifferente, ora si sa che la popolazione lombarda chiedeva invano armi, che il disordine e la disunione erano all'interno del governo provvisorio, che quel governo, il quartiere generale dell'esercito piemontese, avevano spento con una serie di provvedimenti impolitici l'entusiasmo fraterno dei volontari italiani. E conosciuti questi fatti, meglio si comprenderà la storia delle dure prove che la Lombardia ha subito negli ultimi mesi. Salutare insegnamento, speriamo, per tutta l'Italia.